scopriamo, piano piano, e lui è fritto, faccio 15 anni che è fritto, dopo vi credino, è fritto. Lo strumento che sta girando non sbaglia un millimetro. Ho un dubbio, ma non vedrà chi sta facendo questi controlli qua, perché ho un dubbio sulla persona, ma comunque. Segnale dove arriva la portante, poi una volta che ti porta a destinazione suona. E che c'ha la parte come di soldi, lo usa per tante cose, e dopo ci fa questo favore. Tanto se lo vuoi. Ah, va bene, è vecchio, cosa fa? Mi piacciono dei segnali, Gianfra. Fa quattro posizioni, ti porta adesso il filo, un cacciavite infilato dietro, tutto di lì. Capa una volta che ti suona. Se arriva a suono, ho capito. Faceva poco da fuggire, poco, ma è poco, ma poco, però, era questa apparecchiatura costando di soldi. C'ho il saldatore di Luizio. Grazie. Non dille nulla, ombre, che da porti lui. Che è un po' di chiuso, sì. Capino, il signorino. Lo zampino è quasi... C'è un piede dentro per il fuori. A fondo scalati arriva. Caffa, tu cosa hai detto adesso? Ho detto che a Giovanni dalle parti di Lateroci. Caffa, allora sì, è compreso, non lo comprendi Alessandro. Oh, stanno indagando, ecco, miserabile, non lo mettere. Va bene. Caffa, caffa. Sera. Questa zona qui o Latte Dolce o inizio Monterosi. Non senti da qua. A diversi segnali di svarti con una prima giostra con queste a far capire dov'è. Se no, a prendere in giro. far incazzare la gente, capito? Il suo gusto è quello. Oh, senti, anche ci sono anche quei mariachi che via per farsi il pescoso. E come se questo qua, questo qui sta sfidando un medicino. Già una salsa. Sì, hanno piatto, sanno. Infatti, noi diciamo non avevamo strumenti, adesso dice che potenza usa. Ci vuole ma sono cazzi loro. Quello che lei c'è niente, finitela, poi l'ho fatto. Interessante. Io che mette la porta. Io. Ah, che bello. Gita che c'è buon niente, giusto? Miserabile, come va? Sempre a Tarino, ma come vi metto, eh? Ho misurato, l'ho già misurato. Allora, la giovane ti copre. 9,18, 9,20, perché da tutti i dini. Quella che ha non si discute. Eh già, ma allora ci pensa a quella lì che copre. E l'altra ci fa il suo il nome? Vai, vai, c'è la schiava te fissa, miserabile. Questa non hai cazzo, quella che ho detto io. Ah. Ma chi ci c***o? Il bucato, il durmato. Yeah, what? Ah, voglio vedere nell'altro baracchino quanto arriva. Lui qua è 9.18, 9.15, va. C'è quello lì, segnale, lui. Tu, che ci vuoi dire che dice il segnale? Hanno già rilevato. L'ha rilevato Roberto andando a casa. Mi sono dimenticato stamattina di fartelo dire. Ah, mi si ammazza, io non lo sento neanche io, sono squarciato, non me l'ha contenuto. Non me ne dà fastidio a me, no, Giovanni. Non me ne dà fastidio, non mi interessa. Ehi, ci sono, no. Ero al cellulare, un attimino. Ho detto che ero al cellulare, ne ho telefonato. È forte qua, è un altro baracchino. Oh, Giovanni, ma tu esattamente in che punto sei della BDBD? A metà, verso la Terroce, dove sei? La Terroce sì. Dove? Dove? Dimmi dove, non ti preoccupare, dimmi dove. In che punto sei? Orientativamente, in che punto sei? Quindi sei tra via Bottego e via Cilea. Ok, perfetto, è un riferimento. Dobbiamo dare tutti il riferimento. Se a noi ci disturba lì da te, è molto semplice il discorso. Non ci sono molti agganci da fare, capito? Perché allora è qualcuno con qualche antenna piccolina, perché qua arriva 9.20, a me la Terroce mi arriva 9.50 con l'antenna grande. Sì, perfetto Giovanni, va bene anche il tuo contributo, va bene così, non ci sono problemi, non ci sono problemi, va benissimo. A Putidini, piano piano, non si trovano le montagne, ma i cristiani già si trovano. Lei l'ha già trovato. Ma non c'era Alessandro Gianfranco in macchina? Rispondono. Vabbè, vuol dire che stanno lavorando. Ho sentito l'avemo Yaudu. L'avemo Yaudu. Ci voglio più macchine, Giovanni. Se l'altra sera avevamo state 3-4 macchine, avevamo avuto. Comunque, se tu mi stai dicendo e mi confermi che sei alla Terroce, la Terroce, io pensavo che eri alla Budibuti, e che sei in mezzo tra via Bottego e via Cilea, la portante tra te e Mario Mansell, tranquillo e sereno. Perfetto, va bene anche così, vuol dire domani mattina faremo quest'altra dichiarazione. Il bagaglio io le scuola radio ma la volta sci, a tutti i bini che la volta sci. Io come riferimento ho già chiamato, ho dato Monte Basso, però se tu mi stai confermando che a noi ci copre lì, a noi, a me, a Gianni, a Luca ci copre lì, dove sei tu? Allora domani mattina aggiungo anche la Veloce e do la posizione in mezzo. Perché noi come riferimento abbiamo il Monte Basso e poi è stato rilevato un segnale fuori Sassari che adesso è ancora da discutere, però il fatto che stasera tu non me l'avevi mai detto, lui ci copre lì da te e allora è fregato. Allora è qualche ripolo, qualche antenna piccola vicino a te alla Terroce, più alto di te sicuramente, oppure qualche antenna del catto sicuramente, perché le Mantova, quelli che hanno le Mantova alla Terroce a me ne arrivano 9.40, 9.50, tutti. Ok, questo è un buon riferimento, vai Gianni. Se lo chiamano Sacciara, con qui. Si sente adesso ta. Ma io non lo sento però, non lo sento perché Gianni qua arriva 9.50, quindi non lo sento. Però il fatto che stiamo parlando del problema che ci copre da Giovanni è normale, è come aveva accennato qualcuno, può essere anche lì. Va bene, allora ci spostiamo in quella zona. Domani dirò, guardate che abbiamo rilevato anche un segnale in questa zona, da qui a qui, alla veloce, così vedranno loro cosa fare. Diciamo non passa bene bene, ma passa. No, no, qua non ce la fa, c'è lo segnale uguale. Santiago no, però non passa, lo copre. Attenzione bombone, senti qua Lucariello, che è per... Se vuoi ti do, a chi devo mangiare, non andare a scopotto e porto un nome o un cognome. capito? C'è un grandissimo imbecille. Complimenti. Sei stato sempre imbecille, eh? Mi sei sempre stato sulla punta dei coglioni. Adesso te lo faccio vedere io. Ma potete dire bene, che ma ha capito Gianni? Ma ha capito Gianni? Noi siamo 30 anni a radio. Quando io ho chiesto come fa la conferma a Giovanni, gli ho detto dove sei esattamente. Sei buttito. Domani a Manzano tu sei, guarda, dentro la tomba. Perché faccio venire su radio a casa tua e te ne voglio bigliare tutti i canti di radio. Birata che non sei altro. Animali. Hai visto che avevo ragione lui? Ha visto là che Gianni mi ha capito al volo? Al volo proprio, Ha pizzicato. Ci voleva il contributo di Giovanni, io pensavo che Giovanni fosse la Budi, capito? Invece essendo Giovanni alla veloce, in quel punto, verso Ruedo, coglione, gatto, animale che non sei altro, non vale un cazzo, non è mai, guarda, mi è sempre stato sulla punta del coglione sto ragazzo, chissà perché. Già ci siamo compresi, non diciamo il nome, già le faccio nome e cognome io domani mattina all'ufficio che devo andare, non ti preoccupare. Che il voto migliaio del radio, eh? E ti vuoi pulisci il gatto del radio che fai, birata che non sei altro. Allora, è 30 anni birata e te lo vabbù, gatto. Te lo giuro la gasosa domani mattina, tutti i dini. Avanti break. Come non ti ricevo? Mi sei? Ehi, a Pikachu, già ti sento, vai già. Ma lì qua ce n'è anche un altro, ce n'è anche un altro lì vicino. Buioni. Già, ti sto dicendo che hai attaccato in pieno, non me l'aspettavo, in pieno, di brutto, alla grande, alla grande. Veramente complimenti, non mi hai fatto neanche parlare. Solo lui c'è lì, lascia perdere quell'altro. Ma lui come rompi coglioni, scritto, denominato rompi coglioni della radio, perché non ha mai parlato, ha sempre rompi coglioni a tutti, sia alla Feroce che da altre parti. Paga. E vabbè, se riesce a mettere la portante a tutti. Camato la grana, lui aia. È un casino arrivare a un segnale così su dei piedi, là. Non fa. Ci vuole uno strumento adatto. Oia! Sicuramente c'è una canna di macchina, un qualcosa del genere. Sì, qua sembra così, ma i segnali bassi li copre. Vabbè, a caso non li fatti nulla, gli altri, i segnaloni qua negativo. Ma i segnali bassi tipo il tuo, quello di Pinangelo, basso Dio. Lui è più forte che ricopre. Però Claudio, Franco e tutti gli altri, nada buonina di fatto. Parlo. Che mi chiama, avanti? Negativo, cosa ha detto Clap? Mi puoi riferire quello che ha detto? No, lo sento un bel basso. Guarda, sentite, che ti ho scritto io. Ecco. Ho capito, dai. Hai capito cosa sta dicendo qua? Che lui riesce a vedere il colore e tutto quanto, ma come hai fatto a rilevare che sia lui? Figurati, quindi ci sei, quindi è quello che diciamo noi. Claro, beccato adesso. Lo fa con le persone basse che non possono passare. Aspetta che non me l'ha fatto la lettera, sono curicato. Avanti, dai. qua sì, Santiago Novera dice. Non è tanto la radio? No, negativo. Abbiamo sgamato, là. Abbiamo sgamato. E uno da cui là su, si sa chi è. Già. Già. Ehi, ero al telefono e mi hanno chiamato, là. Già come ti dirigo io comunque. Va bene. E cos'è Stefano? Tu quando giudici una cosa a te, ma vai, oppure vai come ti piace, non mi domandare controlli. Se io ti ho detto abbassala, che più bassa la tieni e meno barattolosa è, ha ragione tuo fratello. No, lei è aumentata, ho cambiato sempre uguale. Ma devi allontanare il microfono, devi cercare di tenerlo in un non molto alto, per essere chiara la modulazione, se no è un barattolo. Perché sennò è ancora più cupa. Vai, facciamo girare. Adesso puoi lasciare anche. Ehi, puoi lasciare, è andato. A chi è che aspetta il microfono? Ruttato, ragazzi. Ah, sono ruttato. Non vuoi uscire in piedi? Vai. Figa, quello che era il telefono poco fa con me, fai dove mi hai detto. Vai lì a colpo sicuro, le sto arrivando. Importante, Baraguru. Adesso c'è una campagna per 10 minuti. Se si una KF, se è possibile. Eia. Cos'è Giova? A gratis nei tra. Allora, quello di là, ma con me è quello di là. Sta aumentando un sacco, è aumentato. Più di 9 adesso. E qua è 9,25. E c'è lineare, ne ha del roba, non ti preoccupare. Quando li bigiami tutto. Perché probabilmente non esce con il polo, esce con antenne piccole. No, esce con una multibanda. Hai capito già? C'è una multibanda. Ciao Pina. No, da me no. L'alternata, visto la chiesa? E adesso non passava a finale, manco qua. Mi direi di allineare con l'alternata, si sente sotto di quel segnale dell'altra volta. Che qua ho aumentato, prima era 8, viene 9,5, 9, sta salendo il segnale, cioè è salito. Fina. In questo passaggio ha aumentato e ti ha coperto di buco, ti ha disintegrato. contatte, no? Se non mi ricordo chi c'era, gli ho detto vai sotto questo canale qua, ti ha seguito. Lui ha, già lo so, già ti sei, già tutto le spalle. Sì, è in alto che in basso, già lo so, sì. Beh, quella persona che diciamo io e Claudio ci hanno messo in contazione. Lui dire qua, buongiorno, buongiorno. Pilatone? Sì. Ai, ai, ai. Eppure è strano, ragazzi, è strano. Ma comunque, la mano sul fuoco non ce la metto. Ma io sì, però. Allora, tu fai un discorso matematico. Se noi siamo tutti attaccati, ok, e non ci copre nessuno, ci copre da Giovanni, che è al lato dolce, in mezzo, tra Mario e Mario, per farti un'idea, in mezzo, tra Mario e Mario, vabbè, da tu, Guido e mezzo, Guido e mezzo, tra Mario, Mario e Giovanni. Non so dove sia, più o meno, ma comunque... Se ci copre lì, stai tranquillo che lì, da quelle parti lì, là. Da quelle parti, perché è impossibile, Se ti coprano lì alla veloce, non può essere da rimanere, no. Immaginate che io a Mario Manso gli arrivo a 9,60 a Mario, a mio papà e tu. Mio papà fa solo uno che è attaccato, è tu. Come lui. Vabbè. Quindi Gianni mi ha capito al volo. Non va bene fare nome e frequenza, no, ma si fa, te l'ho detto, ma chi è competente per fare queste cose? Noi non siamo competenti. Tanto mi ha dato il base della Bernacchia, però. Capito. Non gliene frega niente. Poi magari un altro video, non so, ma c'ho problemi. Sto prendendo pastiglie, mi sto drogando. Solo la Bernacchia può fare, poi non così, a tratto non può fare. Quattro volte voglio quella, anche l'altra volta mi fa l'altra la Bernacchia, beh, non ti preoccupare. È un rutto. Io ci ne ho già il mese, due mesi. Poi fa il cazzo. Mica le metto quattro, beh. Ma ci potuto dire, ma il primo giorno è entrato in radio, mi si è puntato proprio sulla punta dell'uccello, non è mai caduto, chissà perché. Grazie. È questa bramugia che vada, se chi si aga, ora c'è un capo del gatto, oggi, collettivo, ignorante. Aspetta, c'è vela 1 forse, è avanti vela 1. La 1 avanti. Come stanno un sacco, Poi avrà l'ugnale con l'unità, è sempre Edomi, magari sono due invece è sempre lui, perché da 9.20 si è passato 9.30. Poi vediamo, aumenta ancora, dai, fammi vedere 9.40. E poi se lui venendo direttamente a casa tua, a Rasura vengomi. Vengo a Rasura direttamente. E ragazzi mi dice buona bottata a me è buona bottata. Gianni, gira gira mi copre, vero? Oh. Gira gira ci copre già, anche a Luca copre, a tutti copre. Guarda, l'unica cosa che mi dispiace è che non sento agli altri, Alghero, Giovanni, Salvatore. Però la colpa non è nostra, prendetevela con lui. Lavorate anche voi, visto che siete tutti in macchina, capito? Lavorate anche voi. Noi problemi ne abbiamo, io con Gianni, con Stefano e con Luca mi sento, quindi fate voi, vai Luca. Sì, era un 9.30, sempre il vermo, non è problema. Pusce 9.40, Luca 9.50, 9.60, Gianni 9.50. Nati buoni un bel infatti, va. Ma segnale di Daniele mi ha fatto, non so se ci ho visto Daniele. Segnale di Daniele. Sì, vabbè. vabbè, ma non arriva più da nessuna parte, cioè per noi non è importante che metta la portante, capito? Noi ci dispiace purtroppo per quelli bassi che parlavo là fuori, ma se deve giocare con noi, deve giocare molto in alto, va. Poi dopo ti dico, io ho un ben atto, vedo, capito? Poi deve giocare molto grosso se vuole giocare con noi, ma non c'è, non è l'altezza, perché siamo tutti vicino. Non lo sento, quella uno, avanti Pierpa. Pierpa, se non mette la portante, sì, ma tu sei 9.10 qua, lui è 9.30, e lui già metti qua. Tanto lui viene. Ci sopra, cazzo, dovetteci sopra. Intanto guarda, questo c'ha apparecchiature VHF, c'ha apparecchiature UHF, ha apparecchiature HF, c'ha lineare, c'ha un sacco di roba, quindi quando qualcuno ha disturbi, voi andate al lato veloce, problemi non ce ne sono. Magari c'è Claudio, magari lui è quello che disturba la linea nazionale. Non lo so, io so solo che le cose le dico davanti a chi le devo dire. E domani a mangiare all'otto e mezzo, agli appuntamento, ballo caffè. Siamo il gruppo in viaggio d'andata. E poi sono carti su. Perché sta disturbando da tutte le parti, non sta disturbando solo qua in 27, capito? Sta disturbando in UHF, nelle PD, in frequenze amatoriali, sta rompendo i coglioni da tutte le parti. Da tutte le parti sta rompendo i coglioni. Capito? E arriva purtroppo forte, perché qua è vicino a noi, arriva forte. Cazzo, non buoni abbortante a me, la gente non me ne burboni a me portante, ma con ricezione me la burboni a me abbortante. Dai Gianni. Sì, c'era Giampaolo che stava facendo qualcosa poco fa. Giampaolo c'era. Alcuni giorni via, perché non è che non andiamo avanti, si è preso per no, tenta di sovramodulare, ma perché vuole vedere se noi, se disturba anche a noi, ma noi non ci disturba, capito? Non è che lo fa per coprire a Gianni, a me o a te, no? Non lo fa parlare a Pierpaolo, non lo fa parlare perché sa che Pierpaolo l'ha riconosciuto lo stesso. Ehi, a nome e cognome sa Pierpaolo. Io lo gioco pure un nome e cognome, non ti preoccupare, io lo gioco pure un nome e cognome, c'ho anche la via all'indirizzo io. Vogliamo andare più a casa sua? Io mi metto, mi sto, se tu mi dici che vieni, io mi sto vestendo, prendo la macchina, garage e andiamo a casa sua. E lì dove abita Giovanni? Ci compromettiamo, lì ci compromettiamo forte. Al limite possiamo fare una cosa, io faccio il colpo di telefono a due amici, se sono di servizio scendiamo direttamente con la pattuglia. Guarda che lo conosco 30 anni. Solo in 30 anni, mi sembra che come ti abbia parlato due volte sola, che la terza volta la gente non rompimi le balle, capito? E si è puntato sopra la punta dell'uccello, non riesce a caverne da 30 anni a questa parte. Tant'è vero che qualche volta è entrato in radio, e quando sente a me sparisce, chissà perché. Stato, e a chi l'è andato a lei? Domani mattina si è fatto, io adesso non devo andare a nessuna parte, non me la tutto il tempo andare in giro a quei paesi, perché io vado dove c'è un campanello, non è quello che posso cercare. Domani mattina vado in questo ufficio e faccio tutto quello che devo fare, non ci sono problemi. Che cosa? Noi provi a bisogno l'antenna in un'altra gabbia e cambi di scelta. Avvisore Gavi, non ti preoccupare, avvisore Gavi. Visto c'ha un sacco di apparecchiature, c'ha VHF, UHF, c'ha di tutto, non ti preoccupare, già lo gioco io usava. E quello no, che fece un studio, mi ha capito per Paolo Gianni. Allora poi vediamo se come la situazione, se come dico io, come dice lui. Ma perché le tue antenne sul tetto ti ho fatto? Non vedi che andassi la bottante fissa è ancora peggio, sì, ancora più coglione. Scherzo, cazzo, poi scherzo devi dare all'altri. Allora, rischetto. Certo, lo scherzo è bello quando dura poco. No, quando uno vuole far vedere delle buone abbastanza in atto, no? Vabbè, ci dovremmo buffonare così allora. Poi veniamo tirati in culo. E la stava già un faccia arrabbiare, dai. No, va bene, cioè sta parlando Giovanni, sta parlando cosa? Perché quella 920, l'importante non fa un cacchio a nessuno. Perlomeno qua. Perché a Giovanni lo sento lo stesso e a Pierpaolo lo sento lo stesso. La 930 è già più pesante, quindi. Si fanno buoni tra di noi, mi va minando, faccio così, metto il volume a zero per Mike e io vado a vedere la televisione e lo sto facendo per scherzo. Ma che lo posso fare, stavo già vetra? Stavate 2 secondi, stavate 10 secondi, chiudo Mike Green. Se lo vuoi dire, stava scherzando, lo può anche dire, se no c'è problema. Dipende sempre, una PLC 800 messa sulla finestra può rendere quanto può rendere nella macchina. Se irradia bene, che ha una bella posizione, la resa è buona, perché no? Un bel piano di massa. Ecco, il portatile, guarda, è ancora più facile che con l'antenna esterna della macchina, è più facile. Dobbiamo contribuire tutti. Comunque, io personalmente sono convintissimo al 100%, come mi ha risposto Gianni immediatamente, che è quella persona. Io domani mattina quel riferimento lo do. Voi, se voi siete in grado di dare altri riferimenti, non potete fare altro che contattarmi in modo che io do altri riferimenti a chi di dovere. Perché insomma adesso basta, sta disturbando da tutte le parti, nelle PD. Io ripeto, non c'ho niente di quelle frequenze che non va giù giunta, però mi hanno detto che stanno disturbando anche da altre parti. Quindi, se è lui, molto probabilmente ha anche altre cose che conosco. Molto bene. Sì, è lì Pierpaolo, è lì, dove siete voi, dove sei tu, dove è Giovanni, dove è Pigaccio, è lì, vicino a voi. Oh, Pierpa, fa una cosa, dai, regalami una bombola da 15 kg, bravo, in camera, sale la chiave, va con le pirabbe, allora capisci cosa succede. Vabbè, ha detto per volerlo bene, poi se la cosa non va bene si busca un pezzo di pompa, si muove un boccaglio e deve aspirarlo. Secondo te, una persona grande o una persona giovane? Secondo te? Ah, va bene, tutti, allora c'è quello qua. Ehi, a tu, stesso potenziale che è tu, non ce ne sono altri lì vicino, non ce ne altri, a chi abbai dammi, ti voto subito il nome, abbai, Vittorio, una rossa mi arriva a 9,60, così ne ha il duio, e ce l'ha attaccato, Mario 9,60, Don Maria 9,60, quanto ne perna, Mario Male 9,60, dovevo fare tutti, Tino lì non ci abita più. L'altro che abita vicino al Barzanna, che è coso, come si chiama, che non entra quasi mai, entra qualche volta a salutare, il segnale è molto più alto, vaffanculo, me la metto. Cioè, i segnali alti e laterali, io li conosco, tutti. In mezzo lì, in quella cerchia dei portatili che sono entrati adesso, c'è lui. Comunque già da vediamo un po', comunque quella persona là che sai bene chi mi ha detto, cioè, mi fai uno squillo e poi già mettiamo in moto tutto, così là siamo più sicuri, ecco, andiamo lì in zona che segna come deve segnare lui, e se no caro poi lì usci una cosa. Perché a me mi sta facendo tanti segnali. Vabbè, quello più basso è lui, l'altro è un'altra ancora. L'altro non deve giocare, perché se giochiamo tra di noi allora non va più bene. Allora stiamo sfasando tutto il lavoro che stiamo facendo. Non dobbiamo rompere le palle a mettere la portante sopra la gente se siamo qua attaccati tra di noi, la Zucubuena di Baggiugare. Che cazzo di discorso è? Allora Bobbio e Baggiugare veniva attaccato, voi e poi vi da nessuno, finito le comunicazioni al Monte Rosello. Cazzo, non si agio del va, ma la tomate un peschetto, non va bene giocare così, già l'altra volta è stato fatto e il cazzo non andava bene, e va bene così, però cazzo ce l'abbiamo tra di noi, poi sfasiamo tutto il lavoro, non sappiamo più da che parte girare, che non lo so così non le ponendo a buffonatura, le ponendo io a vero. Lasciamo stare le cose come stanno. Lo sto parlando, la portante è 9.10, 9.20, che è quella che mi arriva a me e non ci siamo fatti. Sì, quello l'ho capito, fra. Quello l'ho capito. Io, vabbè, ma lui lo fa così per poco, io vabbè, dai, lo sto facendo per... così, per farti incazzare, ma... Vabbè, se tu hai lottato non l'hai fatto mai te, così. Oh, premetto io non ho capito chi è, mi. Se tu l'hai capito io non la giuro un peso, gare. Non la giuro un peso, gare. Vabbè, non è successo niente, non c'è problema. Con questo palacchino segnali il grano sbaglia, perché tu hai un segnale, quello ne è un altro, quell'altro ne è un altro ancora. Uno più uno fa due. Già di un chisto, ci franco può punire a portante in ovvia, che è attenuato o non attenua, solo lui, o Giovanni Mistero può mettere la portante qua, o tu Gianni o qualcun altro vicino a me, i segnali sono questi, perché la radio registra quello, poi tutti gli altri fuori zona, quelli sono segnali che variano, però il 9.20 dalla Peroce non ci sto io, non ci sto, la Peroce a me mi arriva 9.50, quasi tutti, per non dire tutti, capito? Quindi come ti dico io a tutti lì? Ma sai perché me ne sono accorto? Se Giovanni non mi diceva che lui abitava a Latte Rocce, io pensavo abitava a Budibuddi, se lui a me non mi diceva abitava a Latte Rocce non ci sarei arrivato. Avevo un sospetto, anche Gianni aveva sospetto, che Gianni passa tutti i giorni lì, forse lui non lo sa, e si è fermato l'altra volta e me l'ha detto a me, ho sospetto così, anche io gli ho detto, anche io, però non sono sicuro, allora non ce la conferma. Allora è lui, se non ti blocca, a parte che poi lo passi tu, insomma, è lui sì, perché non passa nessuno, capito? Ma comunque, vedi un po' cosa riesci a fare. Già fatta. Domani mattina già lo sai dove vado, no? Dove vado spesso. Vado lì e le dico due cosettine e poi si arrangerà lui. Comunque mi domando io a scordarglielo a voi, sono catti giù. Mi Pierpa. E rispondo al telefono. E tu per nel quale, caro, ho giocato del coso, venire giù per il nel quale, va? Ma più bassa, no, no, questa è più bassa. Un par di coglioni è più bassa, 9.30 qua. No, no, quello le sto dicendo io a oltre i 9 in questo malacchino, poi nell'altra è 9.30, però i segnali sono quelli che dai. No, non è quella, tu te l'avevi detto, non la sta più mettendo adesso. Ah, sei andato a mangiare il turrato, mi abbacca. E che vi passa? No, no, non vi fa niente a voi, passa solo i piccoli, cazzo, passa solo i piccoli. E boh, ed è sempre la stessa che registro io. Giovanni, passa a Pikachu, a Pierpaolo, ma a voi non vi fa niente, non fate nulla a Stefano. Dimmi. Con chi? Ma no, non fa, intanto se passo io a parlare lì, lui mette appresso, non vi sento, mi rimango qua appena, fate pure tranquilli. Non ti ho sentito, non più fa, ti metto la portante per non farmi ascoltare. Ma tu lo stai seguendo col portatilino? Secondo te 70%, che è quel discorso che hai fatto tu l'altra sera. È tutto segnato, io ho già tutti i segnali rilevati, scritte le zone dove sono stati rilevati, eccetera, eccetera, no? Quello che hai rilevato tu l'altro giorno, capisci a me, che eri giù in via Pascoli, è un riferimento, può essere anche lui quello che ruta, può essere anche lui perché l'ha sempre fatto sul canale 5. No, aspetta, non siamo capiti. Non è quello. Qua, io dico che più o meno arriva a 4 e 3. No, non è quello che stai pensando tu. No, assolutamente, proprio... Guarda, buca di nudo al gabbo, perché arriva un bel forte qua. No. È un'altra persona ancora, che Giulio Donno conosce bene anche. Domani mattina mi avvicino a Giulio Dollaro, vediamo che riferimenti mi dà anche lui. A me mi dovete dare qualsiasi tipo di riferimento. Questo di Giovanni è molto importante. Il fatto che a noi, dal monte, a casa di Giovanni ci creppa. Vuol dire che è vicino a Giovanni e a Pierpaolo, uno. Poi ci sono altri riferimenti, bisogna dirli, io scrivo, io sto scrivendo, capito? Dopodiché li porto all'ufficio competente, si arrangiano loro e lo firmo pure, no, me ne ha butto un cazzo. Ehi, comunque ti sto dicendo che è che non c'è una persona, cioè c'è l'antenna, però a quanto mi hanno riferito non c'è più baracchino. Se no gliel'avrei fatta attaccare e così me l'avrebbe confermato lui, ma non c'ha più nulla, c'ha solo l'antenna e basta sul tetto. Lo so, ma il fatto che questa persona possa affidare così a noi, che siamo tutti vicino e che sta disturbando anche in altre frequenze, ti ripeto perché me l'hanno letto, io non ho la possibilità di seguire perché c'è un portatilino e quindi non me ne accorgo perché sento solo chi è forte e quindi non me ne accorgo. Però mi hanno detto che sta disturbando anche in altre frequenze, perciò quello che sto dicendo io personalmente, che conosco, lui a me forse non mi conosce, ma io a lui sì, perché me l'hanno fatto vedere, me l'hanno indicato col dito, ha diverse radio, quindi... non dico al 100%, ma al 99%, io sono sicuro che posso andare a colpo sicuro. Non so, questo non... Io non ci sarei mai arrivato, ecco. Mai, di quello che state dicendo voi. Ho capito, come qua, che a me vale, ma sono arrivato dopo tanto. Non posso dirti sì o no, assolutamente. Comunque io sto pensando a un'altra persona, perché ha avuto sempre quel vizio lì, capito? Ecco perché. Vediamo, dai. Adesso se riesco a trovare una persona, se a me mi hanno riquito perché non ne ha più baracchino. Pensavo venduto. Se non trovo glielo dico di accenderlo. Quindi vabbè, di non entrare, perché tanto non entra più. Ha promesso che non entrava più, perché non entra più. Ma io credo, se ce l'ha, di attaccarlo, di vedere un po'. Perché è molto vicino questo qua, è molto un bel. Vabbè, un attimino che vado a bere. Ah, Domenico! Talino, va Talino, e avevo una cosa sdoppiata, dai. Ho detto una roba là sdoppiata, dai. Ma due soli, uno non lo leggeva, perché era rispettoso, dice. Se no me l'avrei fatto quello che non aveva la copertina sopra, che lui non lo leggeva, era rispettoso. E poi ci vede male anche lì. E vabbè, ho capito, andava, andava. C'aveva la protezione per caso? Quelli della copertina, sì. Ia, va bene. Andava bene. E ne ho un altro da darti. Questo fai. Volevo restituire. Sì, appena ce l'hai, me lo dai, e così io lo faccio e te lo riporto. Quelli là che ho lasciato dove mai tutto. Io ti dico che avevo volato. Quello. Aspetta. E ce l'ha fatto una persona là, capisci, dal volo. Ti ricordi? Ah, mi sembra l'anno scorso, o due anni fa. No, l'anno scorso ce li ha fatti. Che avevo prestati, ce li masterizzati, no? O ce li già. Non ho capito una cosa era. Ehi, vabbè, andava, ma sono tutti cigaretti, ma non è. Siamo già un po' che si mangono, beh. Quello ti devo pacchettare, mamma mia, ti ammazzati. E sei credo. Oh, però ci ho fumato, eh. Un pacchetto ci ho fumato. Comunque quella roba ne ho controllato un bene, quello di stasera. E sono vicino, due me ne manca. Cosa va lì? Stiamo sulla portata, cosa hai detto? Due ne mancano. Beh, Natali, sta completo adesso, il segnale è tuo. E io aspetto. Due ne mancano, stavo dicendo. Di cosa, Natale? Non ho tutto capito. Di quello che ci siamo sentiti al telefono. Capito. A che lati la tua fa? Ah, cappa. Ne mancano due. Ehi. Vabbè, non c'è problema. Allora, se domani ti fai trovare, ti do il numero di una persona, così cerchi di contattarla. Ma l'ha detto, quando non volete non c'è problema. Ehi, no problema, già, domani ci sentiamo domani sera. Cava Rocci, cava cava e cava di positivo. Avanti, per qua. una barnacchia. A te non me, non portate. Calmi. Cazzo, dopo domani devo andare al cacquaio, mi sono scassato le scarpe. Oh, vai, due paia pure io, devo fare il fondo sotto. Il tacco soprattutto. Noi mi sono buscate io. Se no va, inizia a piovere, entra Eva. Infatti. Ecco, già la sali, le scarpe. Allora, non mi sono buscate le scarpe, sì. Non lo senti a cosa? No. c'è Giova? Pikachu. Arriva qua, cra. Non arrivi da Luca, no, Pikachu. No, qua 5RM intendo, no, assai, però riesco a tirarlo fuori. Ma non so, 5RM7. Guardate, è troppo importante, quando io vi dico di lasciar fare chi deve fare, a tutti i divini, intanto già lo fisicano e vedrai, se lui sbaglia non in queste frequenze, ma negli altre frequenze lo fisicano subito, perché c'è gente veramente preparata, perché sa il catechu, quindi se lui sbaglia lo prendono, e noi lo prendiamo lo stesso, non ti preoccupare. Per quanto riguarda la frequenza nostra già lo fisichiamo e... Perché Giovanni stai partendo? No, per qua, tutti i dini. Lascia perdere, guarda, io te dico per esperienza, ho 30 anni di radio, quasi 50 anni, no? Oggi a parlarmi unici uno. Il problema è che purtroppo c'è troppa gente ignorante. Quando la gente ignorante esiste non è facile mandarla via. Queste cose sono sempre successe, quindi inutile che trabilli a Putinini, io non sapevo neanche che Giovanni fosse tuo figlio, pensavo eravate distanti. Capito? Quindi a Putinini, lascia perdere, ti sto dicendo che già lo picchichiamo, a me dispiace che non vi faccia parlare, che non faccia parlare a noi, che non faccia parlare a voi, e che sta tutto il giorno in radio tentando la gente a rompere le palle. Questo mi dispiace più di voi. L'ho sempre detto, però purtroppo la colpa non è nostra, noi siamo in quattro qua vicini e non ci rompe le palle perché siamo vicini, voi purtroppo arrivate bassi e quindi chiaramente ci accanisce su di voi, questo è per scontato, no? Però notte la biglia, appunto i dini, continua a pavizzare, dovete darci una mano anche voi, se è lì vicino a te, dovete essere voi a scovarlo, con i portatili, capito, i figli a piedi, vedi chi sono i biasi, dovete essere voi a scovarlo. E poi noi, tranquillamente, quelli più forti, ci siamo anche noi, non siete rasura, siamo tutti quanti in pari, lo dobbiamo scovare perché ha già rotto i coglioni abbastanza. Se tu piatti l'antenna o Pierpa è da finito di campare, capito? Perché ti ripeto, qua se lui non attacca niente, che rimane 9.20, tu sei 9.10, io ti sento sotto, ti disturba ma ti sento sotto, mentre Giovanni lo copre, perché tu sei leggermente più forte. Però non siete soli, perché Pinangelo è una vita che parla con noi dal vero, Salvatore da quando alla radio parla con noi e si accanisce con questa gente che magari a Sassari arriva a Santiago 9, 9.5, capito? Ed è una grandissima rottura di balle per noi che siamo a Sassari in stazione fissa, per uno come me che fa radio tutto il giorno, è una rottura di balle non salutare un amico che si conosce, parlare con un amico cazzo che parlava fuori. Non posso sempre parlare con Luca e con Franco che ce li ho attaccati, a me piace parlare con tutti. E lui ha scoperto che purtroppo i segnali sono deboli e allora rompe i coglioni. Ma qui fa Giulia. Ah, tutti dimmi, cosa... Cioè, così gli stanno l'importanza. Fregatene, tu parla, fregatene, tanto caro ti sente. Ah, se non te ne sta mettendo. Perciò cosa... Cioè, ti pare che devo bucare un baracchino, un po' imbecille. Ma se sei sicuro che è tu, questo è il segnale. Dai, sta a Rianna, e gli occhi che do... Che problema ha? Comunque vicino a voi, siete voi in prima persona, lo dico per esperienza, l'amico, siete voi in prima persona che dovete intervenire, perché noi siamo pronti a fare quello, io ho già tutte le zone che mi hanno segnalato, perché già da diverse settimane che sto uscendo gente in macchina a cercarlo, io compreso, e non avevamo bucato bene. Oggi ho chiesto a tuo figlio dove abitava proprio per quello, perché quando lui mi ha detto ti sta passando, è impossibile passarmi a me, è impossibile, guarda, è impossibile, capito? senso, perché io sono in via Pascoli, ho tutti i punti di riferimento miei e so dove arrivo bene e dove arrivo male. Io la veloce, ho un segnale di 9.50 da tutti. Se lui a casa del tuo figlio mi passa, è come ti ho detto io, è vicino a voi, ma non vicino, è attaccato a voi, c'è una persona solo, io non ho il tuo numero di telefono, ma se ce l'ha Gianni doppio room, me lo faccio dare e ti chiamo, ok? E ti dico esattamente chi è, perché mi hanno detto di non dire niente in radio, di non fare nomi. Io ho tutto scritto e darò a chi di competenza, le darò questo mio prospetto, questa botta che abbiamo fatto tutti assieme, dei vari punti, dei vari riferimenti della portante, e si arrangia a chi è di competenza, noi non se ne ha fatto un cazzo che fa. Però te lo dico chi è. Ora c'è qua, quanti è via telefono, proprio, non dico numero e via, più o meno dopo è vicino. Perché se è vicino a questo dove sto dicendo io, è lui. Adesso non posso dire niente qua, sennò da poi magari se la sgano, magari non fa. Ma se tu riesci a procurare il numero suo, qua, poi così ti fa dire esattamente dove se più o meno vicino alle porte, o più o meno più su alle porte. Così io sono sicuro che è lui. Io già domani Gianni non lavora, siamo già d'accordo, può fare al telefono con un'altra persona che conosci bene e mi ha detto domani Gianni non lavora, ci mettiamo d'accordo domani pomeriggio, ci vediamo, io se Gianni ce l'ha il tuo numero Pierpaolo. Ascolta Pierpaolo, vediamo un po', tu le poste dell'alta dolce, sei vicino con quelli più o meno? Calla, ti vuoi dire che ci vedi qui, Luca, fidati, è quello che ti dico io, vedrai, comunque fatti dire più o meno, perché abitare questa persona, abitare in zona. Eia, vai tranquillo, è 30 anni che vado alla radio, credetemi, vedi che gagini, non ha già passato il buro io. Ne ho passato anche io, fregatene, se ti sono vedere che è attaccato a voi, a me non mi può passare tu, lui a me non mi può passare se è in un'altra zona, al latte dolce, ma non si discute neanche minimamente, perché io al latte dolce c'è un segnalone, sono davanti al latte dolce, hai capito o no? Vengo tutti i latte rotti da sopra casa mia, tutto, quindi se lui passa a me personalmente, è attaccato a voi, ok, quindi non ci sono dubbi, è quella persona lì. Sei taggato che ha segnato la Juve a Torino. Tutte, non hai compreso? Tra due domeniche c'è anche l'Inter e poi c'è il Milan, vediamo cosa succede. Cazzo di Dio, sono contento che questa Juve non sta puntando al campionato, ma almeno alle coppe deve puntare. Ah, signor Pallon, guarda che ho fatto 3 giri. Segnale 8, perciò lì è problema di PL, questo è poco ma sicuro, non c'è ricezione, non sta andando con l'antenna. Controlla qualcosa lì. C'era che stava di sguardo. Appunto Barisu, ecco perché. Perché c'è problemi a PL, sicuramente. Controlla bene qualcosa. È perché sicuramente c'è qualcosa che non va. Ora è stato una riambilla in Kiwi. Segnato Glyron, mi ha tre video. Spesa da zero. Questo è in diretta. In diretta. Beh, la partita 0-0, hanno giocato bene tutte e due, però la Juve ha voglia di vincere, cioè ha voglia di fare punti, perché le servono per rimanere alti, perché il quarto posto le serve a lei, il quarto posto per fare le coppe il prossimo anno, non è che puntelli allo scudetto. Sta dimostrando un carattere allucinante, il Sugar. Cioè fino all'ultimo minuto ha segnato lì. A due minuti dalla fine ha segnato tre giri. Ci hanno creduto, non mollano ma raggiù, figato. È un'inquadra addotta. Ma mi ha perso. Sono andato a pareggiare a Milano. Guarda, lui lo sta dicendo, c'è una Juve che come quest'anno è arrivata arrabbiata in Serie A perché ha perso terreno, però sta dimostrando veramente cazzo brutto. Non ami i giocatori, ma gli si vede quattro giocatori bombi, non c'ha difesa, non c'ha niente. Ma per il momento c'ha l'attacco più forte, è allucinante, cazzo. Un momento in bagli di punti è tre giri del Piero Neves, fruttiti. Ascolta, vabbè, ma cosa sta giocando? Boh, non ho visto, come si chiama? Beh, giocatore del Cagliari. Suazo, ma chi così l'ha convinto lui? Io ho detto il giorno che Suazo va via dal Cagliari e bruciato. Ha fatto due battiti e sempre giugendi. Come si chiama, quello l'ex della Juventus con quell'altro sulla fascia e lui manco si ha giocato, non ha giocato preso il Bagosso. Non lo so che casino è troppo Adesso arrivando sta di nuovo, fatto la rumica stasera, gnogno. No, io mi sono riposato un pochettino, e va. Poi ho un mente, il vento, perché è vabbè. No, sono uscito verso le 6 a fare una commissione, poi sono rientrato, e va. E Pierpa è andato via, Pierpa. Chiamano Claudio, poi ha potuto girare un caro malattino, si pare di stendere un caro malattino maestro. Comunque tu per qua cerca di avere il numero di far avere il numero a Claudio, in modo che lui ti chiami, così più o meno le dici dove sei. Poi una volta che mi conferma che sei lì, stai tranquillo e te lo dico io chi è dopo, perché non sono sicuro. Perché questa persona qua, tanti anni fa, aveva visto di fare routine, capito? È lui, vai tranquillo, già è lui. Secondo me ti stai sbagliando qua. Secondo me ti stai sbagliando, non è lui quello che stai dicendo tu, è quello che sto dicendo io. Non lo sto dicendo perché lo faceva, se no non travi diritto. Quel cane stai dicendo tu, e se lo babbo mi dice se vuoi intendere. Cosa il cane? Già mi ha capito Giovanni, chi c'è di Rugani, Rubabbo, di chi c'è, vuoi intendere me? Io mi confondo, perdonatemi. Vabbè, il tuo Pikachu a me non mi piace, di Roma come ti chiami tu? Io ti chiamo Giovanni, non mi piace il tuo Pikachu, è troppo difficile. Quello che sto dicendo io è il figlio di quello che stai dicendo tu, avremmo compreso tutti e due. Fatto di brutto, è lui ti sto dicendo, visto che tu vedi Bazzigelli, Urugani, ero capo di chi ci sono dicendo io. Fino a Babbo non ha più areno dalle sigarette ci fuma, allora i bernacchi ne fanno meglio, c'è Baraguro, capito? E lo papo invece è molto importante, comunque sono loro, padre e figlio. Già ti siamo compresi. E abita lì, mi, va nella piazzetta lì, di fronte al Bassanna Grugano. Che direi attaccato, dai dito che è attaccato a Casalduia. Cosa dicendo Giovanni? Non ci sono, guarda, non c'è scritto. Passare a me, al latte dolce, devi essere attaccato di porta, a chi se non mette buone la faccia in culo. Quelle verticali per la 27, che sembrano antenne marine. Però questo, c'ha anche altre antenne. Vicino a dove, allora, 10 metri più avanti del Bassanna abita un ex CD, che io guarda, c'è il numero del telefono, domani facciamo un esperimento. Lì abita Mario Babbo Natale, che c'ha la radio e c'ha tutto. Ok, c'ha la base magnetica del camion, c'ha tutto perché non sta guidando più. Domani a Manzano, io ando, perché lui c'ha un'altra attività qua a Sassa, domani mattina vado da lui, e lì come deve fare una cortesia. Devi mettere il baracchino, senza entrare, il baracchino, con l'antenna a base magnetica attaccata al vapò, e mi devi riservare questo segnale. Se Mario mi dice che il segnale è suo, ti sto dicendo che prendo la macchina e vado a casa sua. Esatto, tu l'attacca lì nella ringhiera e ti posso vedere che mi telefona già Eddo, bene che siamo andendi, anche Mario veniva a cubire a in terra, Come non si fa? La base magnetica ce l'hai tu, è l'antenna. E l'antenna si attacca alla base magnetica, è già tutta attaccata, Ora la metti, se c'è una ringhiera in ferro, la metti la ringhiera in ferro. E se no in qualche piano di massa, in qualche luogo, in qualche piano di massa, e l'attacchi l'UBL all'ubortabile. Ehi, non c'è l'attacco PL quel portatile, OBNC è, che attacco c'ha? Esatto, c'è il riduttore, BNCPL si chiama, tutti compri quel riduttore dalla GBC o da Fusaro o chi li ha presi da Melchioni e li attacchi l'attacco PL, il PL li attacchi, esci molto meglio. No, non ne hai di tu Smith, segnalatore non ne hai nel portatile. Allora non puoi fare niente. Ci vuole un baracchino, lui già c'è il baracchino. Ci vuole segnale o Giova. Senza segnale non si può fare nulla. Io dico con la vettura sì. Allora metti quello con la base magnetica. Senza antenna ti devi arrivare a te ti devi arrivare senza antenna. È normale che ti devi arrivare, quello è quello che dovete fare. Se lui a te ti arriva senza PL a casa tua, è lui, non c'è niente da fare. E allora è così. E tu lui quale stai dicendo? Questo che stiamo dicendo noi? No. Un altro ancora, dammi riferimento, vediamo che distanza c'è da questo che sto dicendo io. Allora, se... come si chiama? Pierpaolo, abita a 150 metri dalle poste, però bisogna vedere se è dalla parte di giù o verso la parte di su. Vabbè, quella zona la conosco perfettamente bene perché ci ho consegnato per anni, facendo tutto via Bottego, via dove c'è il carrozziere lì, via, come cazzo si chiama, quella via dove c'è la piazzetta, dietro il Balsanna, che via è Pierpa? Posso dire, andando alle poste o salendo verso il monte? Allora è quello che dico io qua. È quello che dico io. Qua, sono sicuro. Vabbè, comunque voglio sapere esattamente dove, perché così non... cioè non... ti posso dire, Don, però... cioè tu mi confermi a me che sei vicino a un posto dove dico io e lui, altrimenti non lo so perché è un casotto. Buona sicurezza a quello che sta dicendo Claudio, buona sicurezza, ma se lui mi dice a me, lui sono qua e lui. Giovanni, sì. Giovanni, E io non lo so, non lo so perché, non lo conosco io questo che state dicendo voi, non lo so. Però se Luca lo conosce e tu stai confermando quello che stai confermando, io problemi non ne ho, non posso dire è vero o non è vero, riprendi Luca. Sì, sì, sì, vabbè. Ma se mi stai dicendo che Pierpaolo è lì, è lui, dai, no, non c'è che siamo a terra lunga. Perché se ne arriva forte e forte, è lui è buono, cioè. Vabbè, comunque, dai, già. Vediamo di fare qualcosa. Fatti vedere Pierpa, ma che fa, c'è un appuntamento. Ma che fa, ci vediamo un po', un caso ne parliamo. E poi ti dico chi è Pierpa. All'inizio non posso neanche magari non so, è un casino perché non sappiamo neanche il tuo numero, è quello. Ma già non so, vedi tu se ci riesci. Non so. Al limite, come si può fare? Già è il mio numero, quello buono, quanto lo uso poco quello. E me la putti, ho usato un poco. Hai sempre usato. E siamo con il mio personale, il numero, quello che hanno tutti, perciò non è. Ce l'hanno in pochi quel numero. Però per il numero di Pierpaolo di dare il mio numero. Io no. Non so, io mio non lo posso dare qua. Io vedo un po' tramite Gianni, se Gianni mi dice il cognome già l'ho rientrato, no? Non ci sono problemi. Se c'è nella guida telefonica è facile, va. Poi lo faccio uno squillo alla guida, al telefono fisso, e poi me lo faccio dare il telefonino. Facciamo così, sono un po' casotto, dai. Sono casotto. Al limite, vabbè, però. Dimmi una cosa. Non fa che. Se vuoi arrivare a me, se conosci bene quelli che ti ho detto prima, anche al più piccolo puoi chiedere. Tramite lui lo chiede alla sorella che ce l'ha il mio numero. Perché? Avete avuto problemi? Vabbè, allora non fa perché è un casotto, dai. Non fa. Ah, buda, già non c'è problema, lì che già fa Claudio, dai. Avete quella là con suo, che ha detto lui. Si può fare così anche. Pronto, c'è il capo dell'appunto. Io me lo segno direttamente, lo gioco già a me, non è qui, perché io voglio dire una cosa a lui anche. Comunque è chiaro, è anche il mio, quello team, Pierpaolo. Accendo, se mi fa, guarda, 5 minuti di chiamata, così dico, la schiena, vaffanculo, così dico una cosa. Quindi va proprio sicuro lui, perché guarda, secondo me è tu, perché magari ha un bel pezzo, non è da farlo, è lui, dai, vedi un po'. Chiacchiamento, io qua. Ehi, va bene, vai Claudio. Vai. Sto squillando, vediamo un po', tu memorizzati questo numero. Va bene. buongiorno. Ha letto? Posso segnare apparecchiature, calcoliamo come dici. Io non sono mai andato d'accordo perché abbiamo idee diverse, molto diverse. Quando io ero più pellegrino vedo, nel senso che ero un bel disgraziato in radio, perché io faccio radio dal 1973, nel giocominato dei Grotti di Gruni, ero un bel disgraziato, rompevo le palle a tutti, facevo un sacco di casino negli anni passati. Quindi a me lui non mi deve dire niente, capito? Perché queste cose le ho fatte prima di lui. Alla fine poi basta, no? Cioè si fanno perché si è ragazzino e basta, finito. Io sono diventato grande, ho fatto radio da grande, mi piace fare radio, ho apparecchiature a livello grande, perché ho dato anche la patente radioamatore, quindi ho deciso di fare radio in una certa maniera. Lui invece non ha mai fatto niente, non ha mai fatto niente. Ha sempre avuto belle cose, perché ce le ha sempre avute, per rompere i coglioni, solo quello ti dico, capito? Lui è il babbo. Aspetta. Buona a sapersi, dai! sicuro? Ma si vuole una persona. Il nome è vero, Giovanni? Il tuo nome è vero, è Giovanni, no? Vabbè, va bene, non c'è problema. Cavagava. E ho un po' Claudio. C'è ancora il telefono, Cla. Soltanto che sono... Perché voglio sapere una cosetta. Perché così magari... voglio essere sicuro, ecco. E come tu mi chiedi, lui abiti tu lì, mamma. E dico sì. Perché noi conosciamo una persona per dire che... Ci mollavi tanti anni fa. Ah sì, poi quando uno è sicuro che una persona metalli, allora vai tranquillo che è, perché più che l'uomo può essere. Io lo so perché lo facevo anche tanti anni fa, ecco perché te lo sto dicendo. Quindi guarda, non mi occupo nessuno da capo, sto dicendo che è quello che dico io. Non lo so, io qua. Non lo so perché... Claudio ne sta dicendo uno, sta dicendo un'altra persona, io ho un'altra persona ancora, ma secondo me è quello che dico io. Ma fidati. Ma Giovanni, negativo, sto passando molto basso di radio, ragazzi. Prova a avvicinartelo un po' alla bocca, nel mezzo del baracchino. Ehi, già è quello che hai detto tu, con la bimba. No. Cioè, allora, io ho detto, non è detto che è lui, attenzione, che non voglio dire una cosa per l'altra. Ho detto a Pierpaolo, se lui abita vicino a questo che fa di cognome D, se lui mi conferma o tu mi confermi che abita lì, è quello che sto dicendo io, non è lui però, classe. Te lo dico di persona. Comunque ci hanno le porte attaccate, sono un bel vicini, e quando attacca mi ha detto l'antenna di gomma, e commenti l'antenna si è attaccata. E vabbè, dai, scusi cui sentivo a te, qui a dire, tu dico domani, ragazzi, ti fai trovare. Dico domani, già, adesso qua lo fa, dietro. Poi se lui deve abitare proprio lì, altrimenti no, non mi può aiutare, ecco. Ma mi sa abitare, come mi sta dicendo, è lui. Questo è poco ma sicuro. Perché quella persona che ti ho detto io, che c'ha il cognome con la D, non ha più nulla, perché mi ha detto una persona, mi ha promesso che non entrava più. Vabbè, ti spiego domani di motivo e perché, dai. Vabbè. Comunque, quella persona che hai detto tu, Pierpaolo, mi ha confermato che è attaccato a lui, attaccato, uguale, la Ianna attaccata, quindi, comunque, domani la parliamo. Vabbè, signori, è già tardi, se no domani si canta lo buco a tutti che non è domenica. Io vi saluto, grazie della compagnia, grazie di tutto e buonanotte anche agli eventuali ascoltoni che sono qua sul canale 10. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Pierpaolo, Giovanni, Luca e chiunque fosse in ascolto. Ciao Pierpaolo, ci aggiorniamo telefonicamente. E ahi, cazzo è la voce, diventa proprio lui. Allora dimmi a me come ti dà, c'è Gianmarco, io sono con Claudio e boh, capito? Quindi dimmi se ti vuoi chiamare Antonio, col tuo pronome ti chiamo Antonio, se ti vuoi chiamare Giovanni, ti chiamo Giovanni. Come ti chiamavi? Ah, tu eri vecchio bombo. E vabbè, avremmo nuovi conosciuti, ti dico comunque Fabi Davi e di Fabi Davi, là. Perché io ho un anno in più di tuo padre, quindi... Mi ricordo perfettamente di questo bombolo che parlava con la greffa della veloce e quindi già ho capito, là. Va bene, ok, allora ciao di nuovo a tutti e ci sentiamo domani, se non mi gatta lo buco. Lui, io domani mattina alle 9 devo andare dal medico, devo fare un fax in azienda. e poi sono libero, perché poi alle 3 devo portare la macchina a fare il tagliando e devo agitare pure i chili e mi rompe un bel balle, anche la Bretagna da piedi io non mi nato, quindi non so a che ora me la danno, però niente, domani mattina sono libero, là. Appena mi libero, tanto sicuramente sarà bella giornata, ci vediamo, ci prendiamo il caffè e mi racconti tutto. D'accordo, va bene, ok. Ok, se no mi state con me ancora 5 minuti, no, sta sigaretta, no, tanto ormai. Abbiamo fatto 30, potremmo fare 31. Va bene, ci aggiorniamo domani. Poi ti dico, io ho capito che vuoi dire chi stai dicendo tu, ma io dico che non è lui, perché magari sto sbagliando, ma comunque dico qua, questa persona qua, poi sicuramente tu non l'avrai mai sentita. Vabbè, ci aggiorniamo domani, ciao, buonanotte. D'accordo, domani mi faccio sapere, ciao, buonanotte a tutti. Riprenditi al papà. Siamo arrivati a quota 3 lì, a quota 3 persone, 3, di cui uno conosce Claudio, vabbè gli altri due li conosco io, ma dobbiamo vedere sempre, dobbiamo vedere un po', perché vabbè già al limite io riferisco a Claudio, poi Claudio riferisce a te, e poi tu ci mi farai sapere se lo conosci o meno, ma sono sicuro che lo conosci a 1000 per 1000. E vabbè, quello, allora diciamo che, un casino, ecco, è un casino, perché, lascio il perché, in via Pascoli arriva 9:30, e mi sembra un po' strano che con l'antennino, comunque vediamo, allora, vediamo, facciamo gli appuntamenti e poi ti confermiamo se è quello che pensi tu o quello che penso io. Dove? Qua? Beh, tu di 9, vabbè, non ci fa il caso, non so smettere, è un po' tirchio. No, ma io sto parlando in macchina, ecco, questo segnale, quello ta ta ta ta ta, 9:30, è appena appena più forte sotto casa di Claudio. Allora, mi sembra strano che un antennino di macchina arrivi così forte in via Pasquale. Ah sì, quasi no, ci manca proprio un pelino e si no. Sempre superiore, non lo dico molto, ma è sempre superiore, capito? Avanti il break, bisogna vedere un po' e valutare, dai, perché è più di uno, è arrivato a questo punto lì, è più di uno, ecco perché, non lo so, comunque la mano sul fuoco non ce la metto, poi non lo so, perché se stai pensando che con la persona lì io allora faccio qualcosa, lo dico a chi lo devo dire e poi vediamo. Bisogna fare degli appostamenti. Allora lì, arrivato a questo punto, ci può aiutare solo una persona, anzi due persone. Vabbè, non me la fotti nuda, tanto non ci aiuteranno mai. Che non è la fustinuta, è un casino, andiamo a fare tre macchine, andiamo a fare tre appostamenti, e allora si può fare qualcosa, perché altrimenti no, non fa, oppure ci vuole radiocognometro, quello non sbaglia, iniziano. No, in questo momento che ti rileva il segnale. Già c'è. C'è un amico, già c'è. Guarda, non mi fa bisogno, basta fare uno squillo e non ci sono problemi. C'è, e come? Allora, rilevo anche il segnale, se uno sta facendo un pezzo di filo dentro casa, o un cacciavite, tutto. E quello è uno strumento con il contra, quando non sbaglia, non sbaglia. Ci fanno tre, non so come stava spiegando, comunque c'è tre così, ma affanculo, tre, quattro, boh. E vabbè, la sposta, ecco. E poi lì ti rileva il segnale. Una volta che è, fritto, non fugge niente lì, Pure se è un portatile, chi si può avere lui si di piatti. Il segnale te lo rileva. E già due anni fa, per questo non c'era più nessuno. Entrava in due, in tre, in quattro, Claudio, qualche altro. Poi c'è Fino e così vabbè erano praticamente rimasti in moto, poi è stato Franco mi ha regalato un barattino, sono entrato anche io, ho iniziato un'antenna fatta così da un dipolo e poi mi sono pensato tutto, sempre i quattro gatti gemmo e poi c'è questo qua a rompere male, allora non va bene. Bisogna fare qualcosa perché arrivato a questo punto è un casino, ce lo fa parlare a voi, capito? Vi copre, perché tra di noi parliamo tranquillamente perché siamo vicinissimi, siamo più o meno quelli che parlano sono tutti al monte, perciò a noi non ci fa niente. Ebbene, a parte che non va bene, ebbene, non sei un pizzino, no? Perciò ti capisco, ecco, ti capisco, però va bene, no? Ma comunque per pagarci il numero di Claudio, dai, vediamo un po'. Guarda, tu e là, le cose, Giovanni ci potete aiutare molto, però molto, se voi mi confermate che siete dove sto dicendo io, poi tramite Claudio io vi dico chi è. Perché sicuramente voi non lo sapete che questa persona qua aveva il baracchino, o quasi pure lo sapete, però magari ce lo voi immaginate, ecco. Io tramite Claudio ti dico chi è, poi ti fai il mio numero, c'è anche il mio numero Claudio, non c'è problema. E così vediamo un po', perché arrivato a questo punto sono di più, ecco, sono più persone, perché Claudio sta dicendo una persona. Tu mi sei tenuta, io mi voglio una francura. Questo gai è di chi tre? Infatti, è quello, perché forse bisogna cioè, vabbè, si può scherzare, sì, così una battutina, ma senza andare oltre, mai c'è quello che si offende. Ma quando si fa una battutina così, per scherzo va bene. Però quando uno inizia, già, tu entri, perché mi ha detto lì da tanto tempo non entrambi e poi senti questa qua che rutta, insomma non va bene, ecco, non va assolutamente bene perché cioè c'è entrato due, mi è andato a farti due chiacchiere così senza poi ammazzare il tempo, ma poi entra questo qua non può andare male, allora la cosa non va bene, perciò non va bene, ecco. Ma comunque già vediamo un po', perché ripeto, a noi non ci fa niente, dobbiamo fare, io ci rimarrivo, ma attacca pure mi li fate, se non fa antenna mona, non fa nulla, perché non fa niente, noi siamo più vicini, però l'unico problema che disturba a te, per dire, a Giovanni, disturba Salvatore di Palmarola, disturba Rita, disturba Pinangelo, quelli più lontani, quelli più bassi, e quello rompe le balle. Perché se ne facciamo rotta noi, io, Franco, Claudio e gli altri, allora non ci fa nulla. Via, poi così mi fai, mi confermi. Vabbè, ciao Pierpa, dai. Buonanotte, salutami a tuo figlio. Buonanotte anche a lui. Ciao Giovanni, anche a te. Buonanotte, fatti sentire. Così vediamo di fare qualcosa. Ciao a tutti, anche io pure io. Thank you.